La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon mercoledì 30 di gennaio 2014, qui a Milano poco tempo fa stava nevicando, adesso si è interrotto, siamo a giovedì, è giusto, io qui tutte le volte sulle schede mi fate fare sempre, io naturalmente prendo sempre alla lettera quello che dicono i miei collaboratori, è giovedì ovviamente. Allora dicevo, qui non nevica più, ma nel frattempo nelle istituzioni della Repubblica, insomma, altro che se ne ben di peggio, c'è un'atmosfera arroventata, perché come saprete dai giornali radio e telegiornali proseguono alla Camera diciamo forme di protesta da parte del Movimento 5 Stelle molto virulente, energiche, dopo quello che avete visto nei telegiornali di ieri sera nell'emiciclo, si sono anche alzate le mani, non solo i toni di voci. Stamattina è stato depositato il testo della richiesta di impeachment nei confronti del capo dello Stato dal Movimento 5 Stelle, sono stati occupati diversi uffici della Camera dei Deputati, il presidente Boldrini ha dovuto chiudere a chiave i propri uffici, non solo una parlamentare del 5 Stelle ieri è stata raggiunta da energiche difese del banco della presidenza da parte del questore di Scelta Civica D'Ambrosio, e quindi una scia polemica enorme, incandescente, su una battuta di un deputato del 5 Stelle rivolta alle colleghe del PD dicendo siete qui solo perché sapete fare IP eccetera eccetera, e quindi insulti sessisti. Questa è l'atmosfera generale. Ricordo a tutti che ieri sera si votava, e lo si è votato facendo ricorso a un abbattimento dei tempi, il decreto legge IMU Banca Italia, un decreto che sul testo relativo alla Banca d'Italia per me era invotabile per il regalo alle banche private successivo alla rivalutazione del capitale della Banca d'Italia, ma è stata la miccia su cui si è acceso tutto questo. Su questo sfondo oggi ci occupiamo, se volete chiamare per dirci la vostra, all'800240024, di un altro pezzo della politica che ieri ha fatto un altro passo avanti, i ritocchi al compromesso della legge elettorale. Quindi se ci volete chiamare per dirci come la pensate voi di quello che avete capito della legge elettorale ieri ritoccata da Renzi a telefono con Berlusconi, se vi piace o non vi piace, che cosa non avete capito e così via, chiamate e vi manderemo in onda come sempre per approfondire intanto i particolari tecnici delle correzioni di ieri. E anche per capire un pochino se questo impianto ci riserverà sorprese di che tipo, com'è in termini comparati rispetto agli altri modelli elettorali, visto che è un modello senza paragoni negli altri paesi avanzati, è un modello autonomo, indipendente, per questo lo chiamano l'Italicum. Abbiamo con noi una persona di cui ho straordinario rispetto da molti anni, un grande costituzionalista italiano, il professor Augusto Barbera, che saluto e ringrazio di essere qui con noi. Buon pomeriggio professor Barbera. Buonasera, ricambio rispetto. No, si figuri. Allora, innanzitutto andiamo a un punto di fondo sul quale mi è molto piaciuto come lei ha commentato. Da quando la Corte Costituzionale ha cassato alcuni punti fondamentali della legge elettorale precedente, il Porcellum, uno dei termini obbligati di riscontro tra l'Italicum, come stava avanzando nel confronto tra Renzi e Berlusconi e le altre forze politiche, Movimento 5 Stelle escluso, è sempre stato quello di rapportarsi alla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale. Prima domanda, ma è così fisiologico che la Corte Costituzionale diventi il metro obbligato di ogni nuova riforma elettorale, o il Parlamento in questo ha un margine non formale ma sostanziale di autonomia nelle sue scelte, professor Barbera? Ma che la Corte Costituzionale abbia assunto questo compito nasce dalla supplenza cui è stata chiamata la Corte stessa per l'inerzia del potere politico del Parlamento. Tutti i poteri neutri del nostro ordinamento sono stati chiamati ad un'azione di supplenza, la magistratura, la Corte Costituzionale e anche il Capo dello Stato, perché è dovuto intervenire proprio per il deficit del potere politico. Però dopo la sentenza della Corte Costituzionale c'è stato un sussulto con l'accordo Renzi-Berlusconi che ha accelerato i tempi e sta portando ad un'intesa. Ciascuno di noi ha in mente un determinato sistema elettorale, così come ciascuno di noi ha in mente la formazione migliore della nazionale. Della nazionale, sì. Però come per i commissari tecnici della nazionale, così anche per la legge elettorale sarebbe bene che non tutti si improvvisassero esperti, sì, per così dire. Esatto. Io penso che si tratti di un sistema non ottimo, ma con diversi difetti, ma l'ottimo è nemico del bene e quindi andiamo avanti. Prima, altra domanda collegata a quella che le ho fatto. Ipotizziamo invece che per una ragione o per l'altra, ne parleremo tra pochi minuti, alla fine questo accordo stenti o non riesca poi a tradursi nella riforma concreta in Parlamento. Nel qual caso, domanda, è vero, come quasi tutti hanno scritto, che ciò che risulta dalla sentenza della Corte è immediatamente applicabile, e cioè si può andare a votare con il porcellum a quel punto senza il premio di maggioranza e però con le preferenze? E come questo sarebbe possibile, visto che per esempio per il Senato noi le preferenze non le abbiamo mai avute nella storia della Repubblica? Come si fa a considerarla una legge comunque automaticamente vigente se non si fa la riforma e si può andare a votare con quella? Sentenza della Corte Costituzionale vuole essere auto-applicativa, cioè si può andare a votare con quanto, uso tra virgolette l'espressione, prescritto dalla Corte Costituzionale, e cioè legge elettorale proporzionale e voto di preferenza, cioè legge con cui sono eletti i parlamenti durante la Prima Repubblica. È vero quanto lei diceva, cioè che si tratta di una forzatura, la Corte Costituzionale ha operato una forzatura, perché compito della Corte Costituzionale è quello di valutare la legittimità costituzionale di una determinata norma, non quella di prescrivere nuove norme. È vero che per una prassi ormai risalente ci sono le sentenze cosiddette additive, sì, cioè in cui la Corte dice è incostituzionale laddove non si prevede che... Nacquero quindi... per estendere il debito pensionistico dello Stato, per dirne esatto, una. Esatto. E però... si è sempre detto tutto ciò deve avvenire a rime obbligate, cioè bisogna trarre la norma direttamente dal complesso legislativo. È autoapplicativa. Questo per la Camera si potrebbe anche accettarlo, ma come giustamente diceva lei, il Senato in tutta la sua storia non ha mai conosciuto le preferenze. Anche perché, se ho letto bene, mi corregga se sbaglio, professore, nella sentenza c'è scritto che per votare comunque, in caso non ci fosse una riforma parlamentare in Parlamento, il governo potrebbe intervenire per via regolamentare, e a me che si possano introdurre le preferenze al Senato per via regolamentare mi sembra uno sfregio ai principi della Costituzione, ma questa è un'opinione mia. Andiamo invece ai ritocchi che sono venuti ieri. Ieri si è alzata, nell'intesa Renzi-Berlusconi, al 37% la soglia per far scattare il bonus nel voto del primo, o nel caso in cui non sia raggiunto al primo turno, nel secondo turno per le coalizioni. È scesa di poco, di uno 0,5%, la soglia minima di sbarramento per i partiti che si presentano in coalizione, non dovranno poi avere almeno il 5% per aver eletti, mai il 4,5%, mentre resta alta le altre soglie di sbarramento, quindi i partiti che corrono da soli devono sempre avere almeno l'8%. Si è introdotta la clausola salvalega, cioè chi fa almeno il 9% in tre regioni, in tre circoscrizioni, ce la fa ad avere eletti. Queste tre modifiche, secondo lei, chi sosteneva che senza innalzamento del tetto la riforma elettorale era incostituzionale, è così soddisfatto oppure no? A me sfugge come dal 35 al 37% possa essere costituzionale o meno. Lei che pensa, professore? Ma dunque, la Corte Costituzionale ha parlato di ragionevole bilanciamento tra la rappresentatività del Parlamento e la necessità di assicurare una maggioranza ed un governo stabile. E per quanto riguarda in concreto la illegittimità del premio prevista dalla legge Calderoli, il cosiddetto porcellum, la Corte in realtà ha detto soltanto una cosa, che era incostituzionale perché non era prevista una base da cui partire, quindi anche un partito al limite con il 10-15% avrebbe potuto conseguire il premio. Qui una base è prevista, e il 37% con un premio del 15% e consente di arrivare al 52%, e in ogni caso non si potrebbe superare il 55% dei seggi. Io penso che siamo in linea con altri ordinamenti europei. Per capirci, l'ordinamento spagnolo, dal quale si era originariamente partito, perché questo prevedeva l'accordo originario tra Renzi e Berlusconi, quello spagnolo ha una clausola di sbarramento occulta del 16-18%. In Inghilterra la Thatcher, la prima volta, o Tony Blair nella fine degli anni 90, hanno vinto le elezioni avendo maggioranze in Parlamento consistenti con il 32, 34, sì, 35% dei voti. Dei voti. Quindi quindi credo che non ci siano grossi problemi per quanto riguarda questo aspetto, né per quanto riguarda il tema delle preferenze. Questo collegio plurinominale e del tema delle preferenze, che era uno dei temi centrali della sentenza della Corte, rispetto a quello che oggi si desume dall'accordo ritoccato, il professor Barbera che pensa? Siamo in linea con la Corte o si rischia? Dunque, per quanto riguarda le preferenze, la Corte ha detto che quelle preferenze previste dalla legge Calderoli erano incostituzionali perché contenevano lungo elenco che poteva arrivare fino a 47 di eleggibili, peraltro neanche conosciuti dall'elettore perché non erano dentro la scheda, ma bisognava le liste bloccate, stiamo parlando. Liste bloccate, sì. Sì, ma bisognava andare lì nei seggi, andare a vedere gli elenchi dei manifesti. Quindi il criterio per lei dalla sentenza è quello della conoscibilità dei candidati, quindi esatto. Pochi candidati in un collegio plurinominale, si risolve quel problema della Corte. Esatto, e anche perché la Corte cita espressamente le liste corte previste in altri ordinamenti, ma d'altro canto io non capisco tutta questa polemica sulle preferenze, o meglio la capisco sotto un profilo politico, non la capisco sotto un profilo costituzionale, tenuto conto che, come ha avuto modo di rilevare la Corte Europea dei Diritti, una sentenza poco conosciuta dello scorso anno, Saccomanno contro Italia, e la Corte ha detto che il sistema delle preferenze non fa parte del bagaglio europeo, soltanto pochissimi stati, la Polonia più San Marino, Cipro e l'Estonia prevedono le preferenze, tutti gli altri paesi hanno o il collegio uninominale o le liste bloccate corte. Senza dimenticare poi il professore, il referendum che abbiamo fatto all'inizio degli anni 90 su questa materia. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta 16:48, primi dallo studio Radio 24 di Milano. Devo una risposta ai molti ascoltatori che sul decreto Banca Italia continuano a chiedere opinioni. Sì, io mi assumo la mia personale responsabilità, la mia opinione controcorrente, diciamo, rispetto al sostegno che è venuto dalle più dei grandi giornali italiani, compreso anche quelli del gruppo editoriale Sole 24 Ore. Mi assumo la mia responsabilità nel pensare e ribadire, l'ho scritto più volte, andate su Leoni Blog, troverete i miei articoli mesi fa. Io considero molto grave, in altri tempi politici era una questione che avrebbe portato il segretario di partito al capo dello Stato a sollevare il problema, io considero molto grave che invece di rispettare la legge del 2005 che prevedeva il riacquisto da parte pubblica delle quote di Banca Italia detenute da istituti privati, nel frattempo privatizzate all'inizio degli anni 90, prima erano pubblici, no? La legge bancaria del 36, che invece di ottemperare quella legge si sia fatto questo scambio per il quale si rivaluta il patrimonio di Banca Italia a 7,5 miliardi, quindi per esempio Unicredit e Intesa hanno il 64% di quei 7,5 miliardi, si stabilisce che nessuno può averne più del 3% entro 3 anni e i privati potranno cedere quelle quote facendo trading e incamerando i miliardi di valore aggiuntivo attribuito a un patrimonio che era pubblico e che verrà incassato da banche private. Io lo considero un escamotage che non a caso non è mai avvenuto in nessuna banca centrale in tutto il mondo. Esistono banche centrali con soci privati, nessuno ha mai fatto un regalo attraverso patrimonio pubblico a banche private di queste proporzioni, in cambio del fatto che lo Stato aveva bisogno di soldi subito e ha quindi alzato l'anticipo IRES 2014 pagato a fine 2013 dalle banche di 8 punti e mezzo fino al 130% gli ha alzato di 8 punti e mezzo l'IRES e l'anticipo al 130%. Questo è uno scambio improprio, non avrei mai immaginato che la Banca d'Italia arrivasse a questo. È una mia personalissima, minoritarissima opinione, però io la penso così e sono ragionevolmente sicuro del fatto che nessun paese al mondo ha mai trovato un escamotage simile, ci saranno buone ragioni per cui non è mai avvenuto. Considero un degrado italiano che la grande istituzione come la Banca d'Italia, a propria volta per dare una mano alle banche private per non fare diluire i loro soci, le fondazioni bancarie con aumenti di capitale, escogiti una manovra di questo tipo. Però sono molto minoritario, non datemi retta, pensatela come volete. Torniamo alla legge elettorale e con noi il professor Augusto Barbera. Sentiamo prima un ascoltatore, Mirko, che ci chiama da Verona. Prego. Sì, ciao Oscar, vado subito dunque. Nel nuovo testo è previsto un divieto di cambiare casacca durante la legislatura? Allora, questo problema che pone Mirko è uno dei tanti problemi che secondo me restano aperti. Che io sappia, e da quello che conosciamo di questo accordo di massima sul testo, no, non c'è. Come per esempio non c'è una norma che modifichi in profondità i criteri per attribuire, sia pure nei tre anni che restano di finanziamento pubblico, secondo la riforma del governo Letta, sapete che si va a una diminuzione rispetto ai 90 rotti milioni di anni, 75, 50, 25, però bisognerebbe modificare il criterio attraverso il quale, sia pure in 20 anni di maggioritario, noi abbiamo continuato a dare diritto ai soldi pubblici a partiti che in realtà avevano poco più dell'1%, ed è questo che ha informato di uno spirito pluriporzionale un sistema che restava maggioritario. Neanche questo è toccato. Che dice il professor Barbera di queste due esempi? Tempi di norme che restano un po' in contraddizione. Ma dunque, intanto volevo completare un attimo prima di dare una risposta al discorso precedente. I collegi plurinominali con le liste corte consentono agli elettori di conoscere i candidati che verranno eletti, anche perché collegi da 3 a 6, praticamente un partito al massimo potrà avere 3 seggi, ma 2 sarà la media. E quindi si sa il primo e il secondo chi sono, e se l'elettore non è d'accordo cambia, non vota oppure cambia partito. No, c'è una norma tuttavia che è stata introdotta, o che dovrebbe essere introdotta sulla base di un accordo delle ultime ore, che invece è preoccupante, che prevede la possibilità di pluricandidature, sì, cioè potersi candidare in più collegi. È una richiesta che è stata fatta dai partiti minori, in particolare da Alfano, da Nuovo Centrodestra, Galdini, eccetera. Perché? Perché non sono sicuri, non sanno dove. Perché dicono, se vado in un solo collegio rispetto ai due grandi, io resto fuori. Esatto, non sanno dove scatterà. Scatterà per loro, potrà scattare, superato il 4,5% un seggio, ma non sanno dove. E allora vogliono evitare questo roulette. Ma probabilmente interessa anche a qualche dirigente anche dei partiti maggiori, perché per avere maggiore sicurezza. Per quanto riguarda la domanda che è stata fatta, che risponde a un'esigenza diffusissima tra la gente, purtroppo non è possibile. Cioè, in base all'articolo 67 della Costituzione c'è la libertà di mandato, non c'è il vincolo di mandato. Quindi chi è eletto... Lei sarebbe favorevole a modificarlo quell'articolo della Costituzione, visto quanto il fenomeno del, diciamo così, dei ribaltonisti è stato diffuso? Perché qui mi rendo conto. Avrei molte perplessità. Sì, perché il divieto del vincolo di mandato è uno dei fondamenti del costituzionalismo liberal democratico, che fu voluto da Sieyès appunto per garantire la libertà del rappresentante che non fosse un mero nuncius. Si possono avere altri strumenti che non sono proprio le leggi elettorali ma dei regolamenti, per esempio prevedendo l'iscrizione al gruppo misto, è già vista, è prevista, per chi cambia senza poter costituire gruppi autonomi. Ecco, è possibile costituire gruppi solo se corrispondenti a liste che si sono presentate alle elezioni, gli altri non possono costituire dei gruppi, questo sarebbe già un qualche deterrente. Senta, come la mettiamo con il criterio che non mi pare risulti corretto fino a questo momento, per il quale una coalizione magari può arrivare anche a vincere il premio di maggioranza, quindi fino a 340 seggi massimo della Camera dei Deputati, essendo magari la somma di una o sola formazione che a quel punto incamera i voti di tutte le altre aggiuntive che però non hanno superato il tetto previsto? Mi rendo conto che può anche essere, tra virgolette, scomodo. Cioè, potrebbe essere l'ipotesi, per esempio, del centrodestra attuale, che tutti i seggi vanno a Forza Italia, perché il Nuovo Centrodestra, la Lega, Fratelli d'Italia, eccetera, non ce la fanno, anche se la loro somma fa scattare il premio a Forza Italia. Sì, sì, sì, è quello che succede nelle squadre, però, dei ciclisti, quando c'è il portatore d'acqua che non ha la gloria di chi poi vince la tappa. E se c'è una coalizione vuol dire che sono voti andati alla coalizione e il partito non è riuscito a raggiungere il 4,5%. Mi rendo conto che è scomodo, ma forse è inevitabile, perché sennò non ha senso la coalizione. E quanto invece al criterio di attribuzione dei fondi del finanziamento, fino a che c'è il finanziamento pubblico, sia pure a decadere, secondo lei non hanno avuto un effetto di comportamento nella realtà iperproporzionalista in Parlamento ad onta del sistema maggioritario? Certamente, noi abbiamo avuto un sistema maggioritario, ma allo stesso tempo abbiamo avuto per anni la possibilità di dare i fondi anche a partiti che avevano raggiunto l'1% dei voti. Questo ha influito molto, notevolmente direi. Adesso col testo che ancora deve essere definitivamente approvato e al Senato, certamente ci saranno delle limitazioni. Auguriamoci che le pluricandidature, tema sollevato anche stamattina dal professor Michele Ainis per esempio, i partiti ci sentano, per così dire, favorevole. Perché se io voto per un determinato candidato, il mio voto a favore di quella lista è determinato dal fatto che c'è un certo candidato, esatto, che a me piace molto, e poi vedermelo sfuggire che va da un'altra parte, e decide poi lui chi deve subentrare, perché a volte il giochetto era questo. Certo, rapidissimo. Abbiamo scoperto che Berlusconi era senatore. Lei voterebbe a favore o contro gli emendamenti, anche in questo caso Lega, Nuovo Centrodestra, che dicono la legge elettorale se la possiamo votare prima, ma è vigente solo dopo che abbiamo cambiato Costituzione, Titolo V e Senato. Lei è favorevole? Sì, io sarei favorevole, perché secondo me può la legge avere un successo. Teniamo presente che questa legge prevede il doppio turno di coalizione. Se nessuno raggiunge il 37% si va ad una sfida fra i due schieramenti più votati. Se ci sono Camera e Senato contemporaneamente che danno la fiducia, potrebbe anche darsi che ci siano due sfidanti alla Camera e due sfidanti al Senato. Quindi meglio cambiare prima il Titolo V, che significa elezioni però l'anno prossimo. Continuate su Radio 24, grazie professor Barbera, con me l'appuntamento a domani.